sprecato a pensare, guardando fisso il soffitto di casa, cercando ancora la voglia di fare, perduta in quella giornata d'inverno. Faceva freddo e tu stavi male, e non volevi sentire ragione. La mia vita urlavi e gridavi, io voglio questo, lasciami in pace. Cosa vuoi da me? E cosa credi che sia? Ma che ne sai di me? Di quello che ho vissuto? Posso fermarmi? Si è scurito, la voce molto flebile, ti prego scusami, ti prego aiutami. Solo pensando alla tua vita, a tutti i sogni che come castelli in aria.